Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge Il mare non bagna Napoli, di Anna Maria Ortese. Nella stanza da pranzo, la tavola era apparecchiata con tutto il meglio della posateria, dei piatti e bicchieri. C'erano 8 posti, perché anche Dora Stassano, che aveva solo una sorella, a sua volta invitata dalla famiglia del fidanzato, era del numero, e con lei Giovannino Bucca, fidanzato di Anna. Sulla credenza, tra qualche fascio di fiori rosa, stavano allineati i famosi bicchierini verdi, 12 in tutto, e più dietro si scorgeva il piatto di porcellana con la cassata di Palermo. Su un tavolino più basso era disposta la frutta. Ma la cosa più interessante era il presepio, un'enorme costruzione di cartone e di sughero, opera di Eduardo, che ogni anno cominciava a lavorarci 2 mesi prima, con la passione di un bambino, strillando come un pazzo se qualcuno lo disturbava. Quest'anno, poiché le cose andavano bene, era anche più grande delle altre volte, prendendo tutto l'angolo tra il balcone e la porta di cucina, dove di solito era collocata una mensoletta con sopra una veduta di Venezia. La stanza, a motivo di questa costruzione, sembrava più piccola e allegra. Era davvero un'opera eseguita con amore meticoloso e paziente, in cui erano sfoggiate tutte le capacità e l'intelligenza di un uomo. Il fondo era stato ottenuto con un immenso foglio di carta blu di Gragnano, sparso di forse 200 stelle ritagliate nella carta argentata e dorata e attaccate con un po' di colla. La grotta, scavata entro l'arco di una collina che imitava un poco quella di Napoli, così ondulante, tranquilla, non era grande e bisognava curvarsi per scorgere dentro le figurine non più alte di un pollice. San Giuseppe e la Vergine, ambedue modellati insieme alla pietra su cui sedevano, avevano il volto e le mani di un rosa acceso e curvi sulla mangiatoia sembravano fare delle brutte smorfie, proprio della gente che muore. Il bambino, di grandezza molto superiore a quella dei genitori, anche per un'intenzione simbolica, era invece liscio e pallido e dormiva con una gamba sull'altra, come un uomo. Il suo viso non esprimeva nulla, altro che un apatico sorriso, come se dicesse «Questo è il mondo» o qualcosa di simile. Una minuscola lampada elettrica illuminava quella stalluccia, dove tutto, dalle carni del fanciullo al muso degli animali, esprimeva passività e un duro languore. Fuori della grotta era molto più bello. I pastori, un vero esercito, inondavano immobilmente quella piccola montagna, apparendo in atto di salire e scendere lungo i pendii, di affacciarsi a questa o quella bianca casa costruita nella roccia, secondo lo stile dei paesi meridionali, o di curvarsi su un pozzo, di sedere alla tavola di un'osteria di campagna, infine di dormire, svegliarsi, passeggiare, corteggiare una ragazza, vendere, e si vedevano le bocche aperte al grido. Una spasella di pesce o risuolare delle scarpe, seduti a un deschetto, o eseguire una tarantella, mentre un altro, con aria maliziosa, accoccolato in un angolo, andava toccando una chitarra. Molti, con le braccia levate, vicino a un asino o a delle pecore, indicavano un punto lontano in quella carta di Gragnano, o coprivano gli occhi con una mano a difenderli dalla viva luce di un angelo che era calato da un albero con una striscia di carta su cui era scritto «Osanna», oppure «Pace in terra agli uomini di buona volontà». Non mancavano per finire 2 caffè eleganti, sul tipo di quello di Piazza dei Martiri, con i tavolini nichelati sul marciapiede e delle carrozze con le ruote rosse che andavano su e giù, piene di signori con gli ombrellini bianchi e il ventaglio. Ogni tanto qualcuno della famiglia si soffermava pianamente davanti a quel simulacro della divinità e osservava questo o quello animale e anche ne prendeva in mano uno, una pecora, un gallo, guardandolo con curiosità da tutte le parti. La stanza era già piena dei membri della famiglia che chiacchieravano in attesa del pranzo e i più giovani, come Petrillo e Anna, facevano vibrare scherzosamente le note del piano. Murolo è sempre Murolo!» andava dicendo Eduardo, mentre Anna, in piedi davanti al pianoforte, faceva suonare ora questo, ora quel tasto, scandendo poi a bocca chiusa le parole di coro ingrato, quelle stesse che si sentivano dalla mattina qua e là per i vicoli dai grammofoni o radio aperti. Tutte passate cora, cora ingrata. Basta, basta con queste tristezze, disse la Stassano. Oggi ha da essere allegria, questo è l'anno che tutti si sposano, soggiunse strizzando l'occhio ad Anastasia. Anastasia, in piedi vicino al balcone, elegantemente vestita, ma con un viso lungo e malinconico, perché pensava sempre a questa vita e ad Antonio, le rivolse un'occhiata piena di gratitudine, insieme di ansia, sentendosi ancora una volta per quelle parole rivivere. Dunque, anche lei era considerata giovane, anche per lei c'era speranza. E quell'ingombro sul cuore, quella vergogna confusa, quella contrarietà di stare pensando cose non adatte a lei, forse erano questo l'errore e non la speranza di vivere. Si sentiva il bastone della zia Nana picchiare tutto intorno. La povera donna, come una rana capitata in un cerchio di farfalle, senza più badare alla noia della sua esistenza, era avida di carpire qualche voce, una nota sola di quel confuso e blando chiacchierio che le ridesse un contatto con ciò che aveva perduto da tempo immemorabile. Gioventù e amore la tormentavano di curiosità, e spiava i visi, non potendo sentire le voci, e borbottava e rideva continuamente, assentendo a ciò che immaginava di capire. Che allegria, che bellezza la gioventù! Sulle guance gialle, per fare onore alla gioventù, s'era messa un po' di rossetto e ora i suoi occhi terribili bruciavano. Che allegria, che bellezza la gioventù! In quanto a me, andava dicendo Giovannino Bocca, un giovincello con due baffi color carota e le orecchie rosse e grandi, in quanto a me, penso che la squadra del Napoli si avvia a essere buona, ma ha bisogno di soldi, molti soldi. Il nostro stadio puro va rinnovato, osservò con una certa noia Edoardo, e accostandosi al pianoforte, muoveva sul leggio questo o quello spartito. Sembra che la casa ricordi voglia risorgere. Avete sentito che belle canzoni quest'anno? Sì, c'è un ballabile discreto, disse Anna. Sentite, viene proprio voglia di ballare. E Dora Stassano girò intorno a se stessa vivacemente mentre Petrillo la osservava. Non c'era nulla di straordinario. Quella gioventù, malaticcia e disoccupata, con poche ambizioni, pochi sogni, poca vita. Anastasia la conosceva e compativa. Eppure, in quel momento, le fece l'effetto di essere bella, sana, felice, ricca di sogni e di possibilità che si sarebbero un giorno realizzate, e partecipava di quella gioia malgrado sapesse che non le apparteneva, che ne era distante. Il suo cervello sapeva questo, ma il suo sangue non lo sapeva più. Ecco, da un momento all'altro il giovanotto sarebbe arrivato. La porta si sarebbe aperta ed egli sarebbe entrato diritto e seduto al tavolo senza guardarla, mentre tutti gli offrivano qualcosa, avrebbe chiesto, un po' impacciato e un po' commosso, «Beh, come andiamo? E tu, Anastasia, sempre al negozio? Ho sentito che ti sposi anche tu, è vero?» «Ah, Dio mio, tutto sarebbe cambiato dopo questo discorso. Il pomeriggio sarebbe stato diverso dai soliti e la sera un'altra. Forse, parlando con Anna in camera, notte tarda, gli avrebbe raccontato tutto. E l'indomani sarebbe stato un altro giorno e dopodomani anche. La notizia sarebbe passata. Anastasia si sposa! Oh, abbiamo sentito dire che Anastasia si sposa! Sembra che sposi il figlio maggiore di Laurano. Lui è più giovane di lei, ma gli uomini ce l'hanno queste curiose passioni. Non la lascia mai. Geloso. No, geloso era troppo. anche se le faceva caldo al cuore. Avrebbero detto invece: «Lei è quasi vecchia, ma lui le vuole bene lo stesso». Era un sentimento che aveva da anni, la stimava. «In tavola, in tavola!» gridò a questo punto la Finizio, entrando nella stanza con un vassoio su cui fumava la zuppiera di porcellana bianca piena di 1000 occhietti gialli del brodo. Con un gran tramestio di sedie, la tavola fu presto occupata. Furono recitate le preghiere, rinnovati gli auguri, e Anastasia provava una felicità così ebbra e strana che a un tratto, senza dir parola, andò in giro a baciare tutti, madre, fratelli, cognati, e quando tornò al suo posto non poteva fiatare e aveva gli occhi pieni di lacrime. Avevano già consumato l'antipasto e stavano assaggiando i primi tagliolini con piccoli sospiri di soddisfazione. Solo Anastasia, tutta assorta nel suo sogno, quasi non toccava il cucchiaio, quando la contentezza e la pace di quell'ora furono travolte da non so che brusio, un'onda larga e segreta di suoni, di sospiri che venivano dal cortile, su cui affacciava il balcone della stanza da pranzo, e dalle scale e dai ballatoi scoperti del caseggiato. Petrillo, che si era alzato di scatto per andare a vedere, trattenne un momento il fiato e poi ruppe in un «Madonna!» eccitato, al che tutti o quasi si alzarono precipitosamente da tavola per accostarsi ai vetri, mentre che allegria! Che allegria!» andava ripetendo bocca piena la nana, che intenta a masticare non si era accorta di nulla. Davanti a una delle due porte del secondo piano, che era quello dove abitava Donna Amelia, si vedeva una piccola folla e venivano pianti e lamenti. Quei pianti erano della serva e di una o due vicine, mentre gli altri si limitavano a commentare la sorte che aveva troncato ancor giovane la vita di Donna Amelia. Con impeto, Edoardo spalancò il balcone e tutti uscirono fuori, malgrado l'aria fredda, per vedere meglio. Così, del resto, avevano fatto tutti gli inquilini. I balconi sul cortile erano pieni di gente che aveva interrotto il pranzo di Natale per osservare con stupore un certo malessere come su quella casa, proprio in un giorno di festa, era passata la morte. Sulla famiglia Finizio era caduto un certo silenzio, che poi fu rotto da voci come queste. Chi l'avrebbe detto? Povera Donna Amelia! Però era malata! Don Liberata, fatti in tempo a vederla! Da una persona nella folla partì questo messaggio diretto a un balcone lontano. «È morta con la benedizione del Santo Padre!» «Beata lei!» rispose un'altra voce. «Ora ha finito di soffrire!» «Questa vita è martirio!» si lamentò un'altra. «Castigo!» «Sentite le campane!» e infatti rombavano ancora annunciando l'ultima messa. «Suonano per lei!» «Non è più di questo mondo! Dio l'abbia in gloria!» E Finizio, come stupidi, a mormorare: «Di questo giorno, ma chi se l'aspettava? Ora bisogna scendere a fare le condoglianze». «Nemmeno per sogno», proruppe la Finizio. «Non sarebbe buona educazione. Chiudete, chiudete le lastre. Dio l'abbia in gloria. Su, rientriamo». Urtò, girandosi, nella nana, che era venuta anche lei vicino al balcone, e ora, poggiata al bastone, col suo viso gonfio per aria, tutta sbalordita, levava i grandi occhi interrogando: «Ma che è stato? Che è stato?» «Donna Amelia è morta! Salute a noi!» le urlò nell'orecchio la sorella. «La torta? E che le vuole la torta?» rispose la nana stupefatta. «Sfilatevi le orecchie, zia!» disse con durezza Edoardo. «Non le hanno portato nessuna torta, anzi non ne mangerà più, è morta all'improvviso!» Fece la vecchia, e il suo orribile volto colorato di rosso si oscurò, gli occhi si abbassarono e riempirono di lacrime. Questa era la vita, un giorno o l'altro, quando non c'era più la gioventù, l'ospizio o una cassa da morto. Anastasia dovette andare in camera sua a prendere un fazzoletto. Aveva il cuore delicato come le corde di un violino quel giorno, e a sfiorarlo suonava. Piangeva, ma non tanto di pietà per la defunta che conosceva e apprezzava, quanto di dolcezza di fronte a questa vita che si presentava così strana e profonda, quale mai l'aveva veduta, piena di sonorità, di emozioni. Era come se avesse bevuto 2 o 3 bicchieri di vino insieme da qualche ora. Tutto era così nuovo, così intenso nella sua semplicità quotidiana. Mai, mai si era accorta che visi e che voci avessero la madre, i fratelli, la gente. Per questo i suoi occhi erano pieni di lacrime. Non perché Donna Amelia fosse stesa sul letto di morte, bianca in faccia e mite come era sempre stata, ma perché in questa vita c'erano tante cose. C'erano la vita, la morte, i sospiri della carne, le disperazioni, le tavole imbandite, l'oscuro lavoro, le campane di Natale, le colline tranquille di Poggioreale. Perché, mentre giù si accendevano le candele, a 1 chilometro di distanza c'era il porto, con la nave di Antonio all'ancora, e Antonio stesso, che tanto le era stato caro, a quest'ora sedeva a tavola, in mezzo ai suoi parenti, pensando chissà chi e a che cosa. E a un tratto si accorse che, in mezzo a tante emozioni, il suo pensiero più profondo era tornato calmo, freddo, inerte, come era sempre stato, e di Antonio e della vita stessa più non le importava. Non si domandò perché fosse questo. Sedé ancora come la mattina sul letto e guardando tranquillamente i particolari più disadorni e noti della stanza, quelle sedie, quei vecchi quadri, i ramoscelli secchi d'ulivo sul bianco dei muri, andava pensando come sarebbe stata la sua esistenza da qui a 20 anni. Si vide ancora in questa casa, non vide il proprio viso, sentì il suono appena irritato della sua voce chiamare i nipoti. Tutto sarebbe stato come oggi, in quel Natale fra 20 anni. Solo le figure cambiate. Ma che differenza c'era? Si chiamavano ancora Anna, Edoardo, Petrillo. Avevano le stesse facce fredde, prive di gioia e di vita. Erano gli stessi, anche se in realtà erano cambiati. La vita, nella loro razza, non produceva che questo, un rumore fioco. Stupì, ricordando la grande festa della mattina, quell'affiorare di speranze, di voci. Un sogno era stato, non c'era più nulla. Non per questo la vita poteva dirsi peggiore. La vita. Era una cosa strana, la vita. Ogni tanto sembrava di capire che fosse, poi, tac, si dimenticava, tornava il sonno. Squillò il campanello nel corridoio e subito dopo si sentirono passi, esclamazioni, voci animati e quella della Finizio, segretamente vittoriosa. «Signora mia, che pietà, avete sentito?» Era la vicina della casa accanto, che veniva a chiedere in prestito del caffè. Nella strada, che doveva essere deserta, perché non ne veniva altra voce, altro suono, 2 cafoni erano intenti a soffiare in una zampogna. E quel suono triste e tenero arrivava dovunque, e a volte si confondeva con un po' di vento che vagava adesso nel cielo di Napoli. «Anastasia!» chiamò la voce della Finizio. Certo aveva bisogno di qualche cosa. «Anastasia!» ripeté dopo un momento, meccanicamente, in quel torpore che era sopravvenuto adesso nel suo cervello e la faceva inerte, quieta. Anastasia andò all'armadio, lo aperse e, visto il mantello turchino che stava lì come una persona abbandonata, mi fece scorrere delicatamente le dita sopra, provando una pietà che però non era legata a niente, a nessun particolare ricordo, sofferenza. Quindi, avvertito a un tratto il richiamo della madre, rispose adagio, senza nessuna intonazione, «Vengo». «Gli